Zolt. Fulminati in azienda. E dai Marta, sono 2 settimane che tu e sul pezzo non ve parlate. Dai, sta guerra tra marketing e vendite deve finire. Edda. No, c'entri, questa volta è veramente esagerato. Mi ha detto che noi del marketing creiamo prodotti invendibili che i clienti non vogliono. Invece sai qual è la verità? Qual è la verità? Sono i venditori che non capiscono i nuovi nostri meravigliosi prodotti. No, ma che dici? I venditori adorano cambiare catalogo prodotti ogni 2 mesi e ricominciare tutto da zero. L'hai detto, il catalogo. Ma sai quanto abbiamo impiegato a scegliere i colori del flyer? Sì, notti intere a studiare l'impatto cromatico. E loro cosa fanno? Neanche se lo leggono, questi ignoranti. Vabbè, adesso dai, sono piccole incomprensioni queste cose. Dai, cerchiamo di trovare una soluzione. Che tra l'altro sto via vai mi dà un reflusso qui, esofagite. No, questa volta deve venire lui a chiedermi scusa. Ma lo sai cosa è stato capace di fare? Oddio Marta, non mi fa preoccupare, che è successo? Che ha fatto? Mi ha rubato dall'armadietto le merendine dietetiche. E dai Marco, sono 2 settimane che tu e la Fonte non ve parlate, dai, sta guerra tra marketing e vendita è vecchia come il cucco, ma su, dai. E no, centrifuga, questa volta ha proprio esagerato, ecco. Mi ha detto che i venditori rifiutano l'innovazione, che imparano a memoria le istruzioni di un solo prodotto e che lo spingono per tutta la vita, ma se quelli del marketing sfornano 30 prodotti ogni 2 mesi. Ma che dici, i marchettari non cambiano mai i prodotti, gli cambiano solo il nome e il libretto delle istruzioni. Bravo, l'hai detto, sono degli amanuensi che passano il tempo a scrivere aggettivi, a studiare montagne di numeri e a fare i loro bei grafichetti, ma hanno mai messo il naso fuori dall'azienda, ma sono mai stati on the road, face to face con quelle belve inferocite dei nostri clienti. Vabbè, comunque sono piccole incomprensioni, dai, cerchiamo di trovare una soluzione, anche perché ogni volta me mettete in mezzo, me se di bisce a pompa protonica mi viene un attacco d'ernia. No, non centrifuga, ne posso più. No, questa volta deve chiedermi scusa, ma lo sai cos'è stata capace di farmi? Sentiamo che si è inventata stavolta. Mi ha scritto lavami sulla macchina con il rossetto indelebile. Centri, vengo a informarti sull'evoluzione dell'ostilità. La dichiarazione di guerra è stata notificata stamattina ed entrambi hanno già inoltrato la richiesta per prenotare una location per i combattimenti. Vabbè, guarda, basta che ne usciamo da sta cosa. Dove li mandiamo stavolta? Guarda, dopo l'arrembaggio stile pirata con combattimenti corpo a corpo, dopo i gavettoni con sabbia e piombo, questa volta è stato scelto un combattimento di soft air sulle rive del Piave. Ah, soft air, che è quello che si spara addosso coi pallini di vernice? Gagliardo, bello quello. Infatti l'iniziativa è stata molto apprezzata e anche i dipendenti non schierati hanno preso le ferie per assistere agli eventi bellici sul posto. Ho capito, ma così paralizziamo azienda, lasciamo campo libero ai concorrenti. Ma cosa potevamo fare? La nostra diplomazia ha fallito e sono saltati tutti i tavoli di trattativa. Lo so, la guerra è guerra. Se è permesso, dottor? Sì, Pacco, vieni, ha fatto che conta i feriti? Certo, dottor. Quanti siamo? Abbiamo 23 permessi per malattia, 12 richieste di fisioterapia e 5 assenti non giustificati. Ecco, e quante settimane stiamo stavolta per ritornare alla normalità? Qui bisogna ricominciare bene. Mi son permesso, dottor, di portare un aggiornamento anche sui dati dell'ultimo bellicoso mese sul nostro mercato. Dimmeli, va, dai. Mentre all'interno della nostra azienda, quei del marketing e delle vendite continua a far baruffa, il nostro principale concorrente Godga riconquista i territori del nord-ovest e anche gli Urali. Ah, c'ho l'ernia iatale, che dolore. Se vuoi saperne di più, www.zot.tv 3Z2O 1T.